Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti da Antonella Cortese e soprattutto alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna e della Dozza. E buongiorno da Liberi Dentro e Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra la città e il carcere. E abbiamo qui con noi ancora per questa settimana Ignazio De Francesco, che sapete è volontario AVOC. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno a te e a tutte le persone che ci ascoltano dal carcere e anche da fuori il carcere. E dalla prossima settimana la conduzione ritornerà a Caterina e alla sottoscritta, però per oggi godiamo ancora della tua presenza. E di che cosa parliamo? So che hai selezionate delle lettere speciali dal carcere di persone speciali. Sì, questa settimana per la gran parte vorrei presentarvi, abbiamo letto durante queste settimane diverse lettere, anche lettere di persone che conosciamo, che ci hanno scritto, ma di quelle persone recluse che hanno sofferto la reclusione per le loro idee. Quindi in violazione di quello che oggi è un principio per noi costituzionale, non si puniscono le persone per l'espressione legittima delle idee. Allora un primo caso è quello di Sandro Pertini, che è stato il settimo presidente della Repubblica e ha avuto tutta una sua storia di antifascista che l'ha portato a fuggire in Francia e poi il rientro in Italia e poi l'arresto nel 29 con la condanna al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, prima alla reclusione e successivamente al confine. Ora, come tutti, anche Sandro Pertini scriveva alla mamma. La madre rimane uno dei destinatari delle lettere al carcere e dal carcere. Solo che questo è per l'istorario con la madre, c'è una lettera drammatica di Sandro Pertini. Ci vuoi leggere qualcosa, Ignazio? Allora, vi leggo questa lettera del 33 in cui lui scrive a Pianosa alla madre, infuriato, si può dire questa la parola, per il fatto che la madre aveva presentato per lui la domanda di grazia, perché sapeva che era malato a Pianosa, quindi anche indotta da degli amici ha fatto questo passo. E Pertini gli scrive così, leggiamo qualche riga, Mamma, con quale animo hai potuto fare questo? Non ho più pace da quando mi hanno comunicato che tu hai presentato domanda di grazia per me. Se tu potessi immaginare tutto il male che mi hai fatto, ti pentiresti amaramente di avere scritto una simile domanda. Perché hai potuto compiere un simile atto di debolezza, scrive ancora Pertini, e poi dice, e mi sento umiliato al pensiero che tu, sia pure per un solo istante, abbia potuto supporre che io potessi avere la mia fede politica pur di riacquistare la libertà. Come si può pensare che io, pur di tornare libero, sarei pronto a rinnegare la mia fede? E privo della mia fede, cosa può importarmene della libertà? La libertà, questo bene prezioso, tanto caro agli uomini, diventa un suicidio, straccio da gettar via, acquistato al prezzo di questo tradimento che si è osato proporre a me. Ignazio, ma le parole sono molto pesanti, molto impegnative. La mamma come le avrà recepite? Allora, di questa lettera poi c'è una testimonianza che dello stesso Pertini, che risale al 1980 per un giornale, e in questa testimonianza dell'80 scrive così Pertini, leggiamo ancora lui, vi è un particolare ancora oggi per me penoso che devo ricordare di quel mio passato. Al carcere di Pianosa caddi malato e la notizia giunse ai miei di Savona che indussero mia madre a presentare domanda di grazia. Quando il direttore del carcere di Pianosa mi comunicò che mia madre aveva presentato la domanda di grazia e mi chiese se a quella domanda mi associavo, io rifiutai sdegnosamente e scrissi una lettera crudele. Ancora oggi ne sento il rimorso. le rimproveravo di essere venuta meno alla parola che ella mi aveva dato quando ero reclusa a Regina Coeli e di aver offeso con la sua domanda di grazia la mia fede politica. Commisi la crudeltà di non scriverle per 2 mesi, finché venni a sapere che la colpa della domanda di grazia non doveva essere attribuita a mia madre, ma ai miei amici. E allora ripresi a scrivere alla povera donna. Questo è il vecchio Pertini che emerge in un modo straordinario, bellissimo i rapporti con la madre, con questo scontro molto forte. La madre voleva salvarlo dal carcere e lui dice no, io devo rimanere, insomma, perché questo sarebbe un'offesa maggiore uscire. Certo, certo. Senti, che cosa vogliamo ascoltare? Che brano hai scelto? Ma un po', insomma, sull'onda di queste idee, ascoltiamo Viva l'Italia di Francesco De Gregori. Ascoltiamola. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, preso a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. L'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. L'Italia con le bandiere, l'Italia povera come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. E rieccovi su Liberi Dentro ed Euradio TV. Dopo aver ascoltato la bellissima canzone di Francesco De Gregori, cominciamo il lunedì dall'attualità, dalla triste attualità della presa dell'Afghanistan da parte dei Taliban e anche dalla morte di Gino Strada, fondatore di Emergency nel 1994. E Emergency è stata fondata in quell'anno dopo una grande esperienza maturata da Gino Strada alla Croce Rossa. E tra i fondatori ci sono anche la moglie Teresa Sarti, alcuni colleghi e amici. È un'associazione indipendente e neutrale, nata per portare cure medico-chirurgiche di elevate qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Ecco, ritorniamo allora all'Afghanistan, quello che sta accadendo e forse anche quella lettura che si può fare anche in retrospettiva. Sì, però vorrei un attimino precisare qualcosa ancora su Gino Strada, perché il primo progetto di Emergency, proprio perché Gino Strada è stato molti anni, 7 anni in Afghanistan, dicevo, il primo progetto di Emergency è stato in Ruanda durante il genocidio, poi è andato in Cambogia, paese in cui è restato per molti anni. Nel 98 parte per l'Afghanistan, lo raggiunge via terra e l'anno dopo apre il primo progetto nel paese, un centro chirurgico per vittime di guerra ad Anabah. Nella valle del Panjshir. Poi rimane in Afghanistan, come vi dicevo, circa 7 anni, operando migliaia di vittime di guerra e di mine antiuomo e contribuendo all'apertura di altri progetti nel paese. Oggi è presente Emergency in Afghanistan con 3 ospedali, un centro di maternità e una rete di 44 posti di primo soccorso. Tra l'altro dal 2005 inizia anche a lavorare per l'apertura di un centro di cardiochirurgia in Sudan, il primo centro di cardiochirurgia totalmente gratuito in Africa. Poi andrà in Sierra Leone e si occuperà anche dell'emergenza Ebola. E si può dire che Emergency abbia curato oltre 11 milioni di persone, tutti, indipendentemente dalle fazioni. Chiunque arrivasse nei suoi ospedali veniva accolto e curato. E quindi che cosa diceva, come leggeva Gino Strada l'Afghanistan? Lui diceva che aveva vissuto in Afghanistan complessivamente 7 anni. Testuali parole ve le leggo. Ho visto aumentare il numero dei feriti e la violenza, mentre il paese veniva progressivamente divorato dalle insicurezze e dalla corruzione. Dicevamo 20 anni fa che questa guerra sarebbe stato un disastro per tutti. Oggi l'esito di quell'aggressione è sotto i nostri occhi, un fallimento da ogni punto di vista. Ma non voglio parlarvi della situazione politica che ormai è su tutti i mezzi di comunicazione, ne stiamo parlando tutti i giorni perché la situazione è molto complessa. E vorrei piuttosto leggervi la preoccupazione di Manuba Serai, una delle attiviste più note in Afghanistan. Ha 73 anni e ne ha viste veramente tante. Ve lo leggo. I talibani hanno detto che lasceranno lavorare e studiare le donne. Ci credo? Non lo so. So solo che un gruppo di ragazze di Herat, che conosco, una volta caduta la città, sono andate dal rappresentante locale degli studenti coranici e gli hanno chiesto rassicurazioni. Ma lui ha negato loro il permesso di fare qualunque cosa, compreso andare all'università e lavorare. Altre testimonianze. Per tutta la vita ho combattuto contro l'immagine della donna afghana come una figura senza volto ricoperta da un panno blu. Non avrei mai pensato di indossarne uno. A fronte di chi resta c'è anche chi riesce ad andare via. La testimonianza di Tajik, un analista di 22 anni che lavora per un appaltatore statunitense che aiuta le imprese afghane, è partita così di punto in bianco, senza sapere neanche dove sarà destinata. E poi le sue domande sono: come trascorrerò le mie giornate? Chi sosterrà la mia famiglia? Tajik ha ricevuto la chiamata dal giorno prima al giorno dopo, le hanno detto che aveva solo 10 minuti per partire ed era stato inserito in una lista di evacuazione proprio negli USA in Messico, nemmeno il tempo di salutare i propri parenti. E ora i suoi sogni sono tutti in uno zaino. Le auguriamo tanta fortuna a questo popolo. Va bene, allora fermiamoci, le dediche a chi ha aiutato Eduradio e TV con il crowdfunding e un brano musicale. Sì, restiamo in Afghanistan con una cantante afghana che è paragonata ai migliori cantanti folcloristici del paese, si chiama Nagma Shaperai e la dedichiamo a Stefano Bombarda, Pierpaolo Eramo, Donatella Castelli e Laura Garagnani. Grazie davvero di aver partecipato con il vostro crowdfunding e last but not least, come si dice in inglese, all'International Template SRL di Ato Sazzolini che ha contribuito a questa raccolta fondi. Grazie ancora. Thank you. Adesso la parola passa a Lorenzo Amorosi, che intervista Angela Bucci, funzionario giuridico pedagogico del carcere di Bologna. A te. Ciao a tutti, per la pillola di oggi siamo insieme ad Angela Bucci, funzionario giuridico pedagogico del carcere di Bologna. Capiremo insieme a lei come questa figura lavora quotidianamente a stretto contatto con le persone detenute per costruire percorsi trattamentali individualizzati proprio per le persone detenute. Con questa pillola prosegue il racconto della dottoressa Bucci relativamente ai suoi ruoli e le competenze all'interno della struttura carceraria. Altro compito importante del funzionario è quello di coordinarsi costantemente con una rete esterna. In particolare, noi abbiamo un rapporto di stretta collaborazione con l'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, in pratica con quelli che sono sociali incaricati, che si occupano su nostra richiesta di attivare le indagini sociofamiliari, intercettando esattamente proprio quella che è la rete parentale che corrisponde al detenuto in esame. Questo perché? Perché naturalmente a noi servono nel corso dell'osservazione una serie di elementi utili a valutare il detenuto e a valutare anche la rete esterna in caso di richieste di benefici di legge e anche di misure alternative. Tornando un attimo alla, alla referenza rispetto alle attività trattamentali, per esempio, nello specifico mi occupo delle attività sportive e i miei colleghi, naturalmente, ciascuno per sua competenza, si occupano del servizio biblioteche, delle attività scolastiche, del polo universitario, insomma, ognuno di noi ha effettivamente una sua specificità. Per quanto riguarda invece la tua domanda sulle competenze, sulle capacità relazionali, bene, sicuramente è un lavoro che non tutti possono svolgere, francamente, perché innanzitutto si deve essere dotati di un grande senso, dal mio punto di vista, di un grande senso di umanità. Il funzionario giuridico deve essere capace di attivare una relazione educativa duratura e significativa, cioè attraverso lo strumento del colloquio, che deve essere semplice, parziale all'inizio, ma via via sempre più ricco di contenuti attivizzanti e socializzanti, deve riuscire, si spera, a far passare il detenuto da uno stato di ansia e di completa abulia anche invece a una proiezione verso una progettualità di reinserimento, si spera, no? Questo, diciamo, dovrebbe essere il nostro obiettivo. Vi assicuro che sicuramente non è facilissimo, perché innanzitutto la condizione di sovraffollamento del nostro istituto, ma immagino di tutti gli istituti italiani, non ci pone purtroppo nella condizione di svolgere al meglio il nostro lavoro. Devo essere sincera, cioè spesso la qualità del nostro lavoro molto bassa, potrebbe essere molto più alta, potremmo, diciamo, confrontarci con, aver contatti con più detenuti più frequentemente e arrivare a conoscerli anche meglio. Diciamo che si fa il possibile, però in linea generale, appunto, l'educatore dovrebbe riuscire attraverso questa relazione continuativa con il detenuto a tirar fuori quelli che sono comunque i punti di forza, cioè loro sono comunque delle persone, hanno delle risorse cognitive anche importanti, ben definite, per cui loro potrebbero benissimo, perché no, se c'è una rete esterna molto solida, anche reintegrarsi e rispendersi in progetti di socializzazione che magari prima sono stati interrotti a causa della condotta delinquenziale. E un'altra caratteristica dell'educatore è sicuramente l'empatia, la capacità appunto di mettersi nei panni dell'altro, una capacità di ascolto attivo, cioè non solo codificare il messaggio, ma anche leggere gli elementi verbali e non verbali del comportamento, della comunicazione, e poi soprattutto anche la capacità di tollerare le frustrazioni, perché gli interventi spesso si rivelano fallimentari, quindi bisogna un attimo averne coscienza, consapevolezza, per appunto riuscire poi comunque a continuare a svolgere al meglio il proprio lavoro. L'altra domanda era quella del meticciato. Allora, Esatto, sì. devo dire che il carcere di Bologna supera alla grande questa sfida. Mi sento di dirlo fermamente, perché? Perché abbiamo all'interno del nostro istituto uno sportello di mediazione culturale che nell'arco di questi anni si è potenziato. Quindi riusciamo, grazie al contributo dei mediatori, a garantire un supporto linguistico, direi, completo, perché abbiamo sicuramente una copertura per la lingua inglese, francese, araba, serbo-croata, russa, albanese, e su richiesta lingua urdu e cinese. Allora, i mediatori culturali, spendo delle parole positive per loro, ci danno una grande mano, soprattutto con i detenuti non definitivi e non solo con quelli anche definitivi, naturalmente. Perché? Perché il loro intervento è essenzialmente di natura pratica, cioè di lettura, di traduzione, di lettere, di scritti specifici, ma soprattutto nella relazione di aiuto con il detenuto riescono, diciamo, a intercettare esattamente in lingua quelli che sono i bisogni, quindi riescono in molti casi anche meglio di noi nell'immediato a identificare le cause del malessere della persona che magari è appena giunta e E quindi in carcere. adesso godetevi qualche minuto di musica. Torniamo prestissimo. Taking all that you can bear, just call me up, 'cause I'll always be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful. True color. true colors, and that's why I love you. So don't be afraid, oh, to let them show your true colors are beautiful, oh, like a rain. Ottimo, ottimo. Beh, insomma, vi relazionate anche con tantissime altre figure, sì, oltre alla vostra, diciamo, perché davvero da quello che ci hai spiegato, cioè, c'è veramente un intreccio di figure che vengono coinvolte poi in queste dinamiche che è incredibile. Veramente complimenti, perché da come ci hai descritto sembra un lavoro davvero molto interessante, ma anche parecchio complicato, insomma, anche da questo punto di vista, perché servono tantissime qualità, esatto, per cui appunto l'empatia, che non è una qualità facile da riscontrare oggigiorno nelle persone. Anche per oggi il nostro intervento termina qui, ci rivediamo comunque molto presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere Libri Dentro Eduradio su Facebook o su Instagram se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti! E eccoci di nuovo insieme, la prima parte della nostra trasmissione termina qui, il nostro buongiorno di Liberi Dentro, che va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Città Fuggico, Teletricolore e Lepida TV. Ma i nostri programmi li potrete continuare a vedere, perché ci sarà la rubrica Cefal, che ci parlerà di giardinaggio, e la rubrica Voci dalla Scuola. Vi ricordiamo che le nostre rubriche sono in onda tutta la settimana. Un caro saluto a tutti da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e Enea Flacco, il nostro tecnico. A domani! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.